è una parola interessante. Una delle sue varianti inglesi, trouble, rivela dei legami particolari. Deriva da troubler, un verbo francese del XIII secolo che significa rimescolare, rendere opaco, disturbare. Ci ritroviamo a vivere sulla terra in tempi confusi, torbidi e inquieti. L'obiettivo è diventare capaci di articolare una risposta accanto a chi, della nostra specie, è troppo sicuro di sé e del mondo. Questi tempi confusi e inquieti traboccano di dolore e di gioia, hanno degli schemi ricorrenti e assai ingiusti di dolore e di gioia, in cui assistiamo non solo alla morte cruenta e superflua dell'esistere e del progredire, ma anche a una necessaria rinascita. L'obiettivo è generare parentele attraverso delle connessioni inventive, pratica necessaria per imparare a vivere e a morire bene, l'uno con l'altro, in un presente così denso. Il nostro compito deve essere fare disordine e creare problemi, scatenare una risposta potente dinanzi a eventi devastanti, ma anche placare le acque tormentate e ricostruire luoghi di quiete. In tempi così critici, molti di noi hanno la tentazione di credere che il problema coincida con la costruzione di un avvenire sicuro, con l'idea di evitare che accada qualche evento che incombe minacciosamente sul domani, con la necessità di sgomberare il passato e il presente in modo da creare futuri per le generazioni a venire. Per restare a contatto con il problema, non è necessario avere un rapporto di questo tipo con quel tempo che di solito chiamiamo futuro. A dire il vero, restare a contatto con il problema richiede la capacità di essere veramente nel presente, ma non come un evanescente anello di congiunzione tra passati terribili o idilliaci da un lato e futuri salvifici o apocalittici dall'altro. Bisogna essere presenti nel mondo in quanto creature mortali, interconnesse in una miriade di configurazioni aperte, fatte di luoghi, epoche, questioni e significati. Donna Haraway, Cthulhu Cene. Benvenute a Radio Pippone, un'altra favolosa puntata, un'altra direttissima, specialissima, direttamente su Radio Wombat in 13:59 della M. Sì, siete collegati con noi. Oggi Radio Contatto, Radio Aperitivo. Come ogni giorno, questa diretta speciale alle 19, oggi in onda da Frittole e tanti ospiti speciali. Sono tornato anch'io, finalmente, dopo 3 settimane di assenza. Saluto tutte e tutti, dottor Io al microfono a chiacchierare tranquillamente. Ciao doctor. Ciao Reve. E grazie no, per questa presenza, per l'ennesima presenza. Allora, gli ospiti, non so se è il caso di presentarli subito, comunque, a parte gli scherzi, benvenute ancora su Radio Wombat, come se non lo sapeste, siete all'ascolto, e potete mettervi in contatto con noi scrivendoci a frittole@gattini.ninja, potete andare su wombatnoblogs.org e andare sul pad e scriverci in diretta. E ringraziamo la lettura di Cthulhu Lucene, Donna Haraway. Volevamo iniziare questa puntata rivendicandoci che, cioè, che non è necessario fare solo dei pipponi. La scorsa diretta è stata un po' pesa, per cui Donna Haraway ci dice: scegliete la gioia, non è che c'è solo la presa a male nell'emergenza, vabbè, dai, sapete tutti di che stiamo parlando. Comunque oggi parte una... Scegliete l'amore. Esatto, oggi parte una nuova puntata di Radio Leggerezza. Oggi il tema è questo: Radio Contatto, Radio Leggerezza, Radio Aperitivo. Sbocciate vinelli e birrette, mettetevi comode. Tra l'altro c'era aggiunta la molesta. Scusate. Ciao Mode. Ma avete finito la birra? Devo dire, reverendo, che tenendo gli Electric Wizard come sottofondo, tanto leggeri, non siamo partiti. Cambiamo subito. No, io, cioè, mi piace, sono contento di essere tornato con questo mood. Però dai, magari. Allora entriamo di nuovo in un altro mood, scusa. Il virus che attacca il sistema nervoso. Quindi non so che diavolo mi succede. Che cosa accadrebbe se il male si formerebbe dentro di te? Ho dei sintomi strani. Babbo! Non posso credere che non ci sia un altro morto. Non ti fare coinvolgere! È un virus pazzesco! Milly, chiama un dottore! Io non posso fare una cosa del genere a Bob. Io sto male, più a fare niente. È una cosa che ti sei immaginato tu. Virus micidiale che ti fa stare proprio una cosa malissimo. Ma nessuno può dirglielo. Ecco il nostro malato immaginario. Un virus a cui non puoi sfuggire, ma neanche proprio. Guarda, io ci ho provato, niente. È un caso dispendioso. Dottore, che cos'ho? È solo qualche colpo di tosse. È sano come un pesce. Dottore, chiami il dottore! Tu sei non più caro mio amico, mi stai tradendo! Fermi, amici! Questa storia deve finire! Se ti togliessero il lavoro. Fuori di qui, testa di rapa! Dai, fatemi continuare. Sei licenziato! Vabbè, non vado se ti togliessero l'amore tuo. Bob, io non ti amo più. Se ti togliessero l'amicizia. Johnny! Se ti togliessero il talento. Aia! Se ti togliessero l'automobile. Ma una volta non era così. Scommetto che ti piacerebbe rivederlo. Ti va pure? E se poi volessi vederti sotto la gonna? Ti faceva più peloso. Oh, Billy. Ma il presente riemerge. Ho delle pause. Dall'omologo romanzo di Phil Norimberga. Non ti amo più perché ti sei derita. Maccio Capatonda. Hector Babone. Babbo. Fabio Di Nino. Amalia Fregliosi. Sarà come dice lei. Ti abbandono, Bob. Buonanotte. E per la prima volta sullo schermo cinematografo, il piccolo Riccardino Fuffolo. Chi sei tu? Dottore! Ho la febbra! La febbra. Il nuovo film di Ennio Andy. Avete capito? Come avrete capito, siamo in radio cazzeggio anche stasera. Decisamente meglio. Peccato che la leggerezza noi la associamo sempre alla roba demenziale, però. Ma no, no. Vedremo. Questa era l'ultima parte di presa a male. Allora, avete stappato le birrette? Sì. Avete sfoderato i bicchieri? Bollicine. Avete approntato le droghe? Fatecelo sapere su frittole@gattini.ninja, me lo scordo ancora anche se è bellissimo, mi raccomando. Allora, dai, niente, di cosa parliamo oggi? Dici un po', Modi. Intanto io vorrei chiedere a chi ci ascolta se ci vuole dire che musica vuole ascoltare durante il proprio aperitivo, quindi scrivetecelo. Radio Contatto, non a caso. Di che parliamo? Di tante cose leggere, credo. Siamo tantissimi, sì, tantissime oggi. Proviamo a toglierci di dosso questo imbarazzo. Sì, esatto. Io sono contentissimo di essere tornato e mi sento quasi estraneo, cioè mi sembra di essere un ospite anch'io. Quando invece questa Frittola è ormai è casa seconda tua. Casa, esatto. Però sono contento, sono riuscito in modo rocambolesco a finire a Frittola oggi. Anche tu in modo abbastanza imboscato. Vari giorni di cammino. Vari giorni di cammino. Esatto, vari giorni di cammino. E bene. A proposito di imboscati, io vi volevo parlare un po' di boschi. Di boschi e di imboscati, che era il modo in cui venivano chiamati i partigiani. Ah. Uno dei modi con cui venivano chiamati i partigiani durante la lotta di resistenza. Perché giustamente passavano gran parte del loro tempo imboscati. Nascosti. Però non lo so come avete pensato il programma della scaletta. Qui abbiamo altri due ospiti che presentiamo. Si presentano da soli? Presentiamo noi? Parlate. No, uno è silente, uno è Albus, è silente, quindi parla poco. Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Parla poco ma suonerà tanto. Io sono Diesis, saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Contatto. Una nuovissima ospite. Diesis. Ma vogliamo rompere il ghiaccio, siete già pronti? Io se no lasciamo la parola al doctor, che mi sembra lanciato. Vai. You walk on the subway, subway. You walk on the subway. Moves around. You walk on the subway. Moves around. So you go to see what you got. Allora, carissime e carissimi, io in questi giorni di quarantena avevo iniziato a... In realtà la mia idea era quella di proprio prepararmi una puntata, un paio d'ore di racconto da inserire poi nel palinsesto speciale di Radio Wombat. Però purtroppo non riesco, arrivo a metà delle cose e poi smetto di farle e ne faccio altre. Quindi anche in questa quarantena non sono riuscito a portare a termine la mia intenzione di buttare giù un'intera puntata e quindi niente, alla fine sono venuto qui a chiacchierare un po' e mi sono preparato semplicemente un po' di non so quanto, 10-20 minuti, non lo so. Insomma, la mia intenzione era di mettere insieme, chiaramente non parlare della situazione attuale, perché tanto se ne è già parlato abbastanza. Io vorrei parlare di due cose che a me mi stanno molto molto a cuore, e una è la mia passione per i trekking e per le escursioni in montagna e nei boschi, e un'altra è chiaramente l'antifascismo e, diciamo, in questo caso una forma di memoria storica attiva, perché appunto vorrei parlare di resistenza, di quella che è stata la lotta di resistenza nella zona montana intorno a Firenze, e in realtà dei luoghi, ecco, metto insieme i luoghi in cui i luoghi montani in cui sono vissuti e si sono formati e hanno organizzato la guerriglia e hanno organizzato la liberazione di Firenze le bande partigiane. Quindi niente, iniziamo chiaramente così per parlare, cioè io alla fine non sono né uno storico insomma, sono solo un ragazzo che vuole condividere qualcosa. E bello. Grazie, ringrazio la curva. Allora, che dire, i luoghi siamo fortunati perché comunque abbiamo una storia di resistenza molto, molto viva, e volevo iniziare un po' a parlare della zona di Firenze Sud. Diciamo si inizia dai luoghi più vicini a Firenze per poi espanderci un po' così a macchia d'olio sulle montagne un po' più lontane. E quindi niente, io sono partito a pensare di iniziare questa chiacchierata da Fonte Santa. Fonte Santa è un luogo che si trova sulle colline a sud di Firenze, dopo Bagno a Ripoli. E la collina di Fonte Santa è una zona molto, diciamo, frequentata più che altro perché, diciamo, sulla sommità di questo poggio c'è un pratone dove la gente va a fare le grigliate la domenica. Vabbè, e quello ci sta anche, insomma, è anche piacevole. E a Fonte Santa voi ci potete arrivare da San Donato in Collina, che è, diciamo, il modo più veloce, in quanto puoi arrivare in cima anche con la macchina, però insomma io vorrei parlare di escursioni e di trekking, quindi parlare di macchine mi sembra un po' di barare. Lasciamola stare la macchina. Comunque, per chi, diciamo, la macchina è autorizzata a usarla solo chi porta su le birre, il bere, la griglia, la ciccia, la verdura, insomma. Poi tutti gli altri vanno su a piedi. E per salire a piedi, ragazzi, c'è un bel, diciamo, una bella camminata di un paio d'ore. Ci sono in realtà due o tre sentieri che potete prendere e partono tutti dalla zona dell'Antella. Visto che passate, insomma, visto che l'Antella è vicina a Mondeggi, io a questo punto vi consiglio anche di andare a fare un giro laggiù, andare a salutare la compagna e compagni. E male non fa sicuramente. Ah, io sto parlando chiaramente. Fate sti giri quando finisce la quarantena, non sto certo incitando la gente a creare assembramenti, a partire tutti insieme, a lasciare il proprio comune. Grazie per averlo specificato. Voglio specificarlo, io mi voglio attenere alle regole e ai decreti ministeriali. Tra l'altro Giuseppe non so se ha fatto qualche altro decreto, no, meglio... Comunque, lasciamo perdere. Allora, dall'Antella... ci sono un paio di sentieri, dovete arrivare a Balatro e poi prendere o via dell'Affrico o via di Tavarnuzze e da lì seguite le indicazioni, insomma è facile. Questo è più che un trekking, un'escursione, è una camminata, alla fine è una roba abbastanza semplice. A Fonte Santa cosa c'è? A Fonte Santa c'è appunto questo bel pratone dove poter sbazzare un po'. C'è una casetta, una specie di rifugio che fu costruito dagli abitanti della zona durante gli anni 20 e lì è stato proprio il punto in cui si è formata una delle prime bande partigiane della zona. E è stata una, diciamo, una formazione che è andata avanti, che è iniziata, durata, diciamo, fra uno e due anni, e fino ad arrivare nell'agosto del 44, anzi nel luglio del 44, ad uno scontro diretto con i tedeschi, uno scontro molto sanguinoso, proprio, diciamo, al poco tempo prima della liberazione di Firenze, e in cui, in questo scontro, persero la vita due partigiani, 16 tedeschi, e quindi insomma un buon bottino. Tutta questa parte di colline che da Fonte Santa iniziano e diciamo separano un po' la zona delle colline fiorentini dalla zona aretina è stata diciamo vissuta in lungo e largo appunto per un paio d'anni, dal 43 al 45, dalle bande partigiane. E diciamo, se volete appunto spostarvi anche un po' in là, un po' più lontano, e avete voglia di invece iniziare a fare un po' di camminata un po' più lunga, un po' più sostenuta, potete da Fonte Santa iniziare a percorrere il sentiero di Crinale e arrivare, diciamo, nella zona per arrivare a Pian d'Albero, ecco, che è un altro punto in cui un altro punto, diciamo, in cui si è fatta la storia della resistenza fiorentina, in cui ahimè diciamo è famoso per essere stato il luogo di una strage di giovani. A Pian d'Albero hai detto, Pian d'Albero. Esatto, allora da Ponte Santo, appunto, come ho detto prima, c'è il sentiero 00, il sentiero di finale, ed è un sentiero molto panoramico, molto bello, diciamo si snoda su alcune va dai 500-700 metri sul livello del mare. Da Fonte Santa, diciamo, in un paio d'ore di cammino dovete andare in direzione sud, dove avete iniziato ad avere, diciamo, i Colli del Chianti sulla destra, tutto il Val d'Arno e il Prato Magno, la catena del Prato Magno sulla sinistra, quindi una zona molto panoramica. Diciamo in 2-3 ore di cammino arrivate a Poggio alla Croce. Da Poggio alla Croce, fra l'altro, dice a Poggio alla Croce c'è una fonte magica, la Fonte della Gioventù. Ah, la fontana della, non della gioventù, della giovinezza, scusa. Sarebbe, stiamo parlando la di la gioventù. E tu sei mai stato la giovinezza, non so, ho visto io, so, quando sono passato c'era un sacco di vecchietti arzilli, erano vecchi, però erano tutti molto arzilli, quindi magari funziona. Ma ti riferisci ai guardoni? A metà. Comunque, arrivati a Poggio alla Croce dovete proseguire per Monte Scalari, siamo sempre sui 700 metri. E a un certo punto, arrivati quasi in cima, trovate il sentiero devia e dopo poco arrivate appunto a Pian d'Albero. Pian d'Albero, come dicevo prima, è stato il 20 giugno del 44, è stato luogo di una serie di scontri fra partigiani e tedeschi, e alla fine dei quali, diciamo, furono uccisi 38 compagni, fra i quali anche Aaron Cavicchi, che era un ragazzo di 14 anni che fu impiccato, e era il figlio di una famiglia della famiglia Cavicchi, uno dei figli. La famiglia Cavicchi era una delle famiglie che aveva un grosso casolare, una famiglia contadina, aveva un grosso casolare lì a Pian d'Albero e ospitava e dava supporto alle formazioni partigiane. E per rappresaglia gli impiccarono il figliolo. Sì. Piglia male. Anzi, mi sembra fra l'altro che non fu l'unico Cavicchi a morire in questa esecuzione, ma mi sembra che furono due o tre. Allora, se insomma, questa è una bella camminata che potete fare più o meno in giornata, andata e ritorno da Fonte Santa a Pian d'Albero, altrimenti insomma potete arrivare più vicini a Pian d'Albero andando appunto arrivando con la macchina direttamente o a Figline, perché si sale anche dalla parte dell'Aretino, dal Val d'Arno, oppure direttamente a Poggio alla Croce con la macchina. Ecco, posso farti una domanda? Sì. Se uno volesse salire a Fonte Santa dall'altra parte, quindi tipo Troghi, Le Valli, quella zona là, ci sono dei sentieri? Comunque. Sì, ci sono sentieri. Ci sono sentieri che io non conosco bene. Non ancora. No, io alla fine io non so né una guida né. Attenzione, sto parlando dei sentieri che ho percorso col mio scarpone, e quindi gli altri purtroppo non li va conosco. Bene, li percorreremo prima però o poi. Sì, esatto, è un invito a percorrere. Esistono dei sentieri, ricapitolando, che Dr. Io non conosce, per cui percorreteli alla facciaccia sua. Allora, comunque, grazie Doctor, intanto sei magnifico. Ma che no, guarda. Comunque, no, a me mi piace semplicemente condividere. Poi anzi, invito chi è all'ascolto e ne sa di più, sia sui fatti storici, sia sui sentieri e sulle escursioni da fare, di condividerli con noi e scriverci. I nostri 14 ascoltatori sono ancora un po', non si fanno sentire. No, sono timidi, troppo timidi. Ricordiamogli frittole@gattini.ninja e poi andate su wombatnoblogs.org e trovate il link al pad e ci scrivete subitissimo, se no se avete il mio numero mi chiamate e vi mettiamo in diretta. Ciao, grazie doctor, speriamo che qualcuno ci scriva, speriamo, dai. E che dire, una cosa di Fontesanta che invece non c'entra con non c'entra con la lotta di liberazione, con la resistenza, ma voglio un attimo accennarla perché è un fatto di cronaca molto recente, purtroppo. Ora scusate, ma interrompo un po' il momento allegro. Semplicemente quando è arrivato a Fontesanta c'è questa lapide di questa ragazza che nel 2009 è stata uccisa dal suo ex ragazzo. È stata uccisa in modo piuttosto brutale, proprio in cima al monte, vicino alla fontana di Fontesanta. E insomma è stato un brutto momento, chiaramente, un gesto terribile. E niente, vorrei semplicemente cogliere l'occasione, niente, per lanciare un abbraccio e farci sentire vicini a tutte quelle donne, quelle compagne, quelle sorelle che si trovano a dover passare questa quarantena obbligata in situazioni brutte, con violenza domestica, con uomini che sono violenti e sì, perché restare a casa può non essere rassicurante, un luogo protetto, insomma. No, per niente. Però noi vi abbracciamo e siamo qua nel caso. Comunque io vorrei parlare di un altro luogo che a me mi sta molto molto a cuore, è un posto che frequento abbastanza spesso, che è un altro dei luoghi che legano, diciamo, delle belle escursioni da fare a una storia di resistenza, a una storia di, insomma, memoria storica attiva e di antifascismo, ed è il Monte Giovi. Il Monte Giovi è, diciamo, un altro luogo in cui si sono formate quelle brigate partigiane che poi scesero a Firenze e la liberarono. E il Monte Giovi è una catena montuosa che separa la zona della Val di Sieve dal Mugello. E, a differenza, diciamo, è un pochino più lontana da Firenze, ci metti ad arrivare, diciamo, nella zona ci metti una mezz'ora, e ha un'altitudine superiore rispetto alla catena di Pian d'Albero e di Fontesanta, quindi siamo quasi sui 1000 metri, siamo fra i 900, fra gli 800 e 900 e 1000 metri quasi. E è una zona molto bella, molto selvatica, e, diciamo, anche qui i sentieri sono tanti, ci puoi arrivare, diciamo, proprio in cima al Monte Giovi, ci puoi arrivare un po' sia dalla parte fiorentina che diciamo dalla parte fiorentina salendo verso Santa Brigida, insomma, Pontassieve, Santa Brigida, oppure da Dicomano, oppure dalla zona del versante mugellano, da Vicchio di Mugello. E Monte Giovi è una storia, diciamo, una bella storia, una storia particolare, perché allora qui, diciamo, com'è partita la storia di resistenza? È partita perché su Monte Giovi c'era un campo di prigionia dove c'erano prigionieri di guerra, Non ti sei sentito, Doctor? Ogni tanto salta. No. No, sì. Quest'ultima no, cosa. No, hai parlato mezz'ora in vano. Quest'ultima cosa. Solito problema dell'altra volta. Il microfono che boicotta a un certo punto. Insomma, erano reclusi sia militari stranieri, fra quali molti russi, sia oppositori al regime, insomma. E dopo l'8 settembre, nel periodo, diciamo, in quella fase, in quei giorni di confusione, questi prigionieri scappano e si organizzano grazie all'istantaneo supporto datogli da tutte le varie famiglie contadine della zona, e si organizzano e di conseguenza nasce subito un gruppo molto nutrito di ribelli, composto da diverse centinaia di persone, e che con un grandissimo legame, appunto, con i contadini, con le famiglie della zona, con i paesini di Acone, principalmente di Acone. Ah, okay. Basta, lo smetto. E diciamo si crea una sorta di zona franca nel quale i fasci e i tedeschi non entrano, perché di fatto non sanno né quanti combattenti ci sono imboscati sulle colline di Montegiovi, e non riescono a entrare perché c'è questa grande solidarietà data ai partigiani da parte degli abitanti del luogo, e quindi tutta quella zona per più di un anno si crea un vero e proprio autogoverno della zona. Bellissimo. E le bande dei fascisti non ci passano, e si crea proprio diventa proprio una zona di formazione in cui centinaia di giovani, appunto, che scappano dalle valli e scelgono la via della montagna, si formano, e saranno poi quelle formazioni che libereranno Firenze. E questo periodo fra il 43 e il 44 dura, appunto, questo periodo di formazione e di autogoverno dura fino a ad un momento dove attorno all'estate del 44 si ha il primo vero e proprio attacco partigiano, in cui i compagni scelgono di scendere a valle e andare a Vicchio e fare un vero e proprio assalto alla caserma, alla questura di Vicchio. Grandi. E occupano, i fascisti scappano, ne viene accoppato qualcuno, ma in realtà erano già scappati tutti, e occupano, insomma, i compagni occupano il paese per un po' di ore e poi tornano su in montagna. Ha fatto una TAZ. Esatto, questo è stato un gesto molto utile in quanto c'è stato un richiamo da parte dei fasci di molte forze che da Firenze sono arrivate a presidiare la zona, e ciò ha permesso di alleggerire un po' la pressione, la repressione che c'era sulla città, in cui stavano agendo invece i GAP, i gruppi partigiani che operavano in città. Oh, okay. E quindi è stata anche una scelta tattica. Comunque, dopo questo attacco a Vicchio, gran parte dei partigiani presenti sul Monte Giovi decidono di spostarsi sul Prato Magno, e questo è, diciamo, il quarto luogo di cui adesso parlo un attimo, perché mi sembra, insomma, di chiudere un po' un cerchio. E quindi diciamo si spostano, fanno questo spostamento di 2 o 3 giorni in cui si spostano in forze sul Prato Magno, che è una zona appunto molto più, cioè, qui si parla proprio di montagna, siamo una catena montuosa sui 1400-1500 metri e qui si ha proprio la preparazione vera e propria della liberazione di Firenze, in cui diciamo tutte le bande partigiane della zona di Firenze Sud e Firenze Est, così si ha una sorta di quartier generale un po' delle brigate Garibaldi, e successivamente si muoveranno alla liberazione della città. E Prato Magno è una zona veramente bella su cui camminare, e è quella catena montuosa che separa il Val d'Arno dal Casentino, e c'è un sentiero di crinale molto panoramico, in quanto c'è un albero, c'è proprio crinale, prati, molto semplice, cioè comunque percorribile da tutti, e si arriva, diciamo, la passeggiata che io consiglio, che è quella classica, insomma, di arrivare con la macchina fino alla Secchieta, al Monte Secchieta, e da lì sono una decina di chilometri, arrivare alla Croce del Prato Magno, che è il punto più elevato, e molto panoramico, e poi niente, tornare indietro. Bene. E a sto punto, vabbè, io mi fermerei ora, dai, perché comunque... Ma come? Perché comunque tanto i posti sono tantissimi, e io ho già parlato troppo, quindi ora basta. Perché ci viene troppa voglia di camminare, se no non possiamo. Così, esatto. Anzi, vediamo se sono bravo e in questi giorni mi metto un po' a studiare, magari la prossima volta si fa la seconda puntata. Oh, questa è un'ottima notizia. Perché comunque c'è tutta la parte, anche il Monte Falterona, c'è tutta la parte del Monte Morello, invece, la parte del Mugello, insomma. Abbiamo una ricca storia partigiana sulle nostre colline e montagne, e abbiamo poi delle zone molto belle in cui andare a fare camminate, escursioni. È giusto pensarci, ricordarlo. Cosa dicevi, Modi? Potremmo fare una rubrica dedicata a questo, visto che nel frattempo ci ha scritto anche il nostro caro Camicia, che salutiamo. Ciao Camicia. E ci dice che ci racconterà dei percorsi partigiani in Val di Susa prima o poi, quindi potremmo fare così. Raccontateci i vostri percorsi, insomma, i vostri sentieri che conoscete, possiamo aprire questo. Esplorati e inesplorati. It's getting better. qua a Radio Aperitivo ci sono grandi preparazioni, grandi preparamenti. E tenetevi pronti, allacciate le cinture, abbiamo un live in questo studio appena finiranno i Beatles. Bene, abbiamo qui per voi una piccola performance in onore del tema di questa puntata, ovvero la leggerezza. Mm-hmm. Suoneremo la leggera. Sì, ci stava a fare una canzone partigiana, ma siccome l'abbiamo presa troppo alla leggera, vi faremo appunto la leggera. Avete fantasia, ragazzi, grazie. Yeah. E Diesis magari ci vuole dire qualcosa su perché questa canzone si chiama Leggera. O la vogliamo suonare? E poi la raccontiamo? Suoniamola. Vai. Sì. Vai. Anche i nostri ascoltatori possono avere dei riferimenti. Va bene, a quello che va diremo. Bene. Va bene. Di la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Mercoledì poi è giorno di baruffa, io c'ho della ciucca, non voglio lavorare. Il mercoledì poi è giorno di baruffa, io c'ho della ciucca, non voglio lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, il governo non permette che io vado a lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, il governo non permette che io vado a lavorare. Venerdì poi è giorno di passione, io che son cattolica non voglio lavorare. Il venerdì poi è giorno di passione, io che son cattolica non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, oi che bel giorno, non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, oi che bel giorno, non voglio lavorare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Padron le che arriva le tue rabbia, brutto scellerato, levati di qua. Padron le la che arriva le tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vadan sull'ostia la fabbrica il padron. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vadan sull'ostia la fabbrica il padron. O oh, leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovare. O oh, leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovare. Ma wow, wow, davvero! Incredibili! Radio Contatto, troppo sempre gentili, troppo gentili. Tra l'altro è super a tema, anche volendo, in questo periodo sta canzone ci potrebbe anche stare. Eh sì, perché non si va a lavorare, cioè esatto. Comunque non fai un cazzo qualunque giorno della settimana, è così? Beh, è dei... così. Insomma, domenica. Non per tutte. Non per tutte. Si cerca di non lavorare per il padrone, almeno qui. Noi restiamo in campo, hashtag resto in campo, fateci sapere cosa fate o cosa non fate. No, dai. Era l'altra, reverendo, era l'altra. No, ok, no, ok, Radio Contatto, scusate. E quindi ci volevate raccontare qualcosa? Sì, bene, sì. Sì, appunto. Diesis aveva qualcosa da dire riguardo questo. La leggera, cos'era la leggera? Era questo treno che andava dal nord Italia alla Maremma e trasportava i lavoratori stagionali. E questo treno era chiamato La Leggera in maniera un po' canzonatoria, perché i suoi passeggeri erano dei poveri lavoratori, così poveri che il loro bagaglio non consisteva quasi in nulla, solo in poche cose. Dunque, così venivano canzonati i lavoratori, che tra l'altro appunto si dilettavano in questi canti durante il viaggio e anche nelle stazioni per raccimolare qualche soldo, magari per pagarsi il biglietto. E dunque questo è il nostro spunto, il nostro contributo alla leggerezza. Leggeri di tasca, leggeri di spirito. Vi ricordate? Ce ne parlarono anche i nostri amici della Leggera, dell'associazione che salutiamo. Culturale Leggera, che salutiamo, fra l'altro, e ringraziamo per quella splendida ottava rima sul malaccio che ci hanno mandato e che abbiamo mandato due settimane fa. Sì. Bellissima. E anche loro sul perché questo termine sia diventato così, insomma, su cosa voglia dire la leggera, sì, ci dicevano proprio che era il bagaglio, la borsa leggera di quei lavoratori stagionali, di quei poracci che giravano veramente con niente in tasca, niente nella borsa, e andavano così a fare i lavori dove serviva manodopera. Ma a noi non serve niente, doctor. Anche se giriamo con niente, non ci serve niente. No, vabbè, dai, basta. Comunque, avete un'altra canzone al repertorio? Ancora, per favore. Ma avremo. Ma possiamo cantare dopo, se volete parlare un pochettino. No, ancora. Io non vorrei parlare tanto. Non volete parlare? Allora io farei un'altra canzone in tema leggerezza. Vai, faccio anche mentre vi preparate, mando giusto una canzone della Leggera che hanno eseguito proprio qua a Frittole qualche mese fa. Yeah. Sarà sicuramente. Che semino la vigna, vigna, vigna, vigna, in col ciri, vidi, vin, va il vino in vi, e va il vino in vigna. Di vigna va in vite, oh che bella vite, vite, vite, vite, in col ciri, vidi, vin, va il vino in vi, e va il vino in vite. Di vite va in graspi, oh che belli graspi, graspi, graspi, graspi, in col ciri, vidi, vin, va il vino in gra, e va il vino in graspi. Di graspi va in chicchi, oh che belli chicchi, chicchi, chicchi, chicchi, chicchi, in colo ciri, vidi, bim, va il vino in chi, e va il vino in chicchi. Di chicchi va in panieri, oh che bei panieri, panieri, panieri, oh panieri, colo ciri, vidi, bim, va il vino in panieri, va il vino in panieri. Di panieri va in bigoni, oh che bei bigoni, bigoni, bigoni, bigoni, col ciri, vidi, bim, va il vino in bigo, va il vino in bigoni. Di bigoni va in tino, oh che bello tino, tino, tino, tini, col ciri, vidi, bim, va il vino in ti, e va il vino in tino. Di tino va in botte, oh che bella botte, botte, botte, botte, col ciri, vidi, bim, va il vino in bo, e va il vino in botte. Di botte va in fiaschi, oh che belli fiaschi, fiaschi, fiaschi, fiaschi, in col ciri, vidi, bim, va il vino in fiaschi, e va il vino in fiaschi. Di fiaschi va in bicchieri, oh che bei bicchieri, bicchieri, bicchieri, bicchieri, col ciri, vidi, bim, va il vino in bicchieri, va il vino in bicchieri. Di bicchieri va in pancia, oh che bella pancia, pancia, pancia, pancia, in col ciri, vidi, bim, va il vino in pa, e va il vino in pancia. Di pancia va il cervello, e ora viene il bello, bello, bello, bello, in col ciri, vidi, bim, va il vino in be, e va il vino in bello. Di bello va in corpo, oh che bello corpo, corpo, corpo, corpi, col ciri, vidi, bim, va il vino in co, e va il vino in corpo. Di corpo va in piscio, oh che bello piscio, piscio, piscio, pisci, col ciri, vidi, bim, va il vino in pi, e va il vino in piscio. Di piscio va in terra, oh che bella terra, terra, terra, terra, in col ciri, vidi, bim, va il vino in terra. Il vino nasce e muore in terra. Bonsoir, je suis Gérard Depardieu, moi j'écoute aussi Radio Contado. Oh cazzo, era per Radio Contatto. No. Ha detto Radio Contatto. Sì, ha detto Radio Contatto. Gérard Depardieu ascolta Radio Contatto. Era la pronuncia francese. Gérard Depardieu ascolta Radio Contatto. E ringraziamo Mario Rossi che ci scrive: ciao Mario. E finalmente qualcuno si fa sentire. E siamo ritornati su Radio Contatto, radio aperitivo, radio cena quasi, no? Cena contadina, no? Quasi. E, insomma, vogliamo portarvi altra leggerezza e altri live, altre canzonette. Beh, un saluto speciale a Mario Rossi, che conosco, penso. No, forse no. Ha un altro Mario Rossi. Incredibile. Non è un inventati. No, il mio Mario Rossi era un Gmail. Questo qui è un inventati. Quindi direi che non è lo stesso o la stessa. No, alla privacy. Esatto. Ma Albus, hai qualcosa per noi? Bah sì, io avrei la canzoncina così un po' divertente da farvi. Vai, non essere timido. Non sarò timido, vediamo. Questa canzone si chiama Una storia disonesta, di Stefano Rosso, del suo primo album, penso che anni 70, 76, 77. Quindi canzone di altri tempi, una canzone simpatica, ve la canterò. Vediamo un po'. Si discuteva sui problemi dello Stato, se andò a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevan 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra e uno spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di sì o non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica voi state un po' in campana, ma invece quello ad ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, li accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, torna in cucina tra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no? E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovar? Na na la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Grazie a tutti per aver cantato insieme a me e a tutte. Spinello, grazie ragazze, grazie ragazzi. Grazie, grazie Albus. Davvero, questa storia credo che ci accomuni, soprattutto di questi vero, tempi. Vero. Davvero. E hai nominato il Medio Oriente e io ve ne do un altro assaggio. Io mi connetto subito. We'll be right back. شنگتر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل بشه عشقه مردم میروز quello che ha fatto sta canzone in italiano ha fatto il video e poi è andato a Ebbene sì, come grazie ci ricorda. Grazie mille. Grazie per a voi. Questa perla. Come sì, davvero, peccato che non si può vedere il video in radio. Come ci ricorda, però, come ci ricorda Marty Morgana, le canzoni sono belle live, la musica va fatta. E qua ringrazio ancora i nostri ospiti. E ringrazio i nostri ascoltatori che ci scrivono. E ciao Martina. E, Albus, cosa ci raccontavi su questa canzone che tra l'altro invito tutti a cercare? Beh, questa è una fantastica canzone che mi fa ricordare tanto un caro amico che in questo momento si trova a Piacenza, quarantenato, vicino... Vabbè, insomma, sappiamo. E quindi gliela dedichiamo questa canzone che appunto è stata tradotta in italiano con Lascia entrare Ascanio dall'8 di gennaio. Un roll pazzesco, è bellissimo. Fantastico. No, e diceva prima il dottor qua che effettivamente c'era un italiano che aveva cantato questa canzone che ricordiamo essere iraniana, una canzone tradizionale iraniana, che l'ha cantata appunto al talent show iraniano, che tipo era un X Factor, sì, un qualcosa persiano, esatto, a fare il troll della canzone, esatto. Quindi, una cosa già molto simpatica di per sé, e raccontavamo appunto che esistono due talent show iraniani. Uno che si tiene in Germania, appunto, ed è quello a cui l'italiano è andato a cantare questa canzone, e un altro che invece appunto si trova, fanno in Iran, e che purtroppo è sottoposto a censura, e questo genere di cose probabilmente non si potrebbe vedere. Quindi, ma come mai sei così ferrato sui talent show? Sono così ferrato perché c'è un altro caro amico, Paul, che saluto anche se non ci starà ascoltando, che appunto lui era ferrato su questo argomento e mi ha erudito riguardo a proprio questa cosa. Infatti, però, un aneddoto molto divertente da raccontare, ecco. Ciao Paul. Ciao Paul. Grazie per l'aneddoto. Esatto. Ascoltaci, Ascanio. Beh, io... Hai qualcos'altro per noi, Albus? Dai, improvvisa. Ma per adesso io veramente non avrei nulla, però se mi date un po' di tempo di chiacchiere posso pensare a qualcosa. Chiede una pausa di preparazione, gliela possiamo sì, dare. Sì, una pausa di preparazione. Allora io posso dire quello che avevo preparato per la puntata di oggi, ve lo faccio subito sentire. Aspetta un momento, Garrison, tu devi assolutamente tirarmi fuori di qui. 7 settimane inchiodato a questa sedia, non facendo altro che spiare dalla finestra nelle case dei vicini. Ciao, Jeff. No, Garrison, io... se non mi tiri fuori da questa palude di noia, farò qualcosa di irreparabile. Fatti capire. Finisce che mi sposo, così non andrò più da nessuna parte. Ecco, esattamente, non volevo farvi piangere così tanto, però è successo. Cioè, se non ci tirate fuori da questa noia... ci sposiamo. E a proposito di tirarsi fuori dalla noia, io ieri sono andato così a caso a leggere notizie di gente che scappava dai controlli. E ve lo dico molto... Adesso ve le leggo, cioè speriamo... Non offendetevi, però... C'è abruzzolive.it che titola "Scappa di casa in bici e passa la notte fuori. Giovane di Pineto rintracciato grazie all'unità cinofile". Un applauso al giovane di Pineto. Grazie per essere scappato per noi. No, però, no, lui era andato nel bosco, non si sa far cosa. Era andato nel bosco, è basta. Imboscato anche lui. E poi c'è catanzeroinforma.it che ci fa sapere che non scappano solo gli umani. E dice: scappa un toro, lo fermano polizia e finanza a Casciolino. Non solo transumanza sul lungomare nella notte, ma a quanto pare anche un toro ha deciso di mandare in barba le direttive di governo con la G maiuscola. Ed è scappato poco nella zona sud della città, e precisamente nel quartiere Lido, nei pressi di Casciolino, per bloccare l'animale nonostante il pericolo relativo a causa dell'assenza di gente per strada. Ah, vabbè, pericolo relativo, va bene. Sono intervenuto una volante della polizia e la guardia di finanza, che l'hanno già fermato. Grazie. Prima per il 2020, speriamo non sia uno scherzone. Poi c'è ilpiacenza.it. La polizia gli chiede i documenti e lui scappa di corsa per 3 km. E non è tanto interessante il fatto che lui sia corso per 3 km, ma è l'articolo che è veramente allucinante. Dice, l'ho riassunto, dice: nei guai è finito un albanese di 22 anni, regolare in Italia e incensurato, addosso però, attenzione, non aveva stupefacenti, come la polizia poteva sospettare. Cioè, così scritto il giornale. Strana, no? Non aveva, era albanese, non aveva stupefacenti, che storia. Ma è stato comunque denunciato, questo il 31 marzo. Poi c'è il Corriere Irpinia.it che ci dice: scappa dalla quarantena per un pomeriggio in costiera amalfitana. Grande. L'articolo non l'ha riportato, però cioè vabbè, ci sta, tra tutti i posti in cui puoi andare. Buon gusto sicuro. E poi niente, c'ho l'ultima notizia che per me è veramente speciale, mi sta veramente a cuore, e riguarda Berlusconi, perché Berlusconi scappa con Marta, romantica. Dove? Romantica quarantena. e ho riportato l'articolo quasi per intero. E dice: in questo periodo stiamo assistendo a un fuggi-fuggi generale dall'Italia da parte dei super ricchi nostrani. Anche se, cioè, se non lo... La quarantena uguale per tutti, state a casa. No, invece no. I super ricchi nostrani, se non lo sapevate, stanno scappando. Io non lo sapevo, però potevo immaginarlo. E ora che lo sai, il voglio di classe crescerà. Improbabile. E comunque. È già alle stelle. Sapevatelo che anche Silvio Berlusconi si allontana, si rifugia poco lontano da Nizza. A lui l'autocertificazione non la chiedono di certo. Comunque è, tra virgolette, emigrato, perché diciamolo, anche l'83enne Silvio, per scongiurare ogni tipo di contagio, ma speriamo gli venga qualcosa, a convincerlo ulteriormente ad allontanarsi la figlia Marina Berlusconi, certo, sempre lei, a fare compagnia al politico. Papi, mettiti in salvo, papi! Fare compagnia al politico, la donna che ultimamente l'ha accompagnato nel lavoro e nei sentimenti. Come si chiama questa donna? La conoscete? Boh, io non la conosco. È la deputata di Forza Italia, Marta. È la nuova fidanzata. Marta Fascina. Vabbè. In molti hanno. Marta Fascina. L'abbiamo nominata un po' troppe volte, forse. Comunque, l'articolo dice che in molti hanno criticato la scelta di Berlusconi di allontanarsi dalla madre patria. Beh. Con la P minuscola, attenzione, punto virgola. Alcuni non si aspettavano che un politico di livello come lui potesse abbandonare la nave, la nazione. Di tutta risposta, l'imprenditore miliardario ha donato alla regione Lombardia 10 milioni di euro, tondi, con il quale sono stati realizzati circa 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano. E non ci crede nessuno, però grazie, bello, sei veramente simpatico, anche se scappi in Francia. È perché in Francia si sa, non c'è il virus, no? No, infatti non c'è, non esiste. E abbiamo una canzone a tema Berlu, vediamo se la riconoscete. Scusate ancora, ma dobbiamo riempire dello spazio. caro Berlusconi, dacci i soldi. Vogliamo essere ricche come te. In estate alle Bahamas, se non è alle Barbados, all'aereo personale, ma lei sa volare e pensare. Ci faccio una pensione milionaria, Berlu. Facci sognare. Quando c'eri tu si stava bene, quando c'eri tu. Il ristorante non c'era la crisi, e poi non c'era il virus quando c'era il Berlo, voglio ricordare, vabbè basta. Questa regia si sta trasformando sempre di più ogni momento che passa in un delirio, ma vi faccio sentire l'ultima notizia della mia rassegna stampa, ed è un ciclista del Salento che si è buttato in mare con la bici per sfuggire ai controlli. Cercate il video su Repubblica, è bellissimo, ve lo faccio solo sentire. Dai, questo è il pullotto che parla. Venite dai, venite, uscite, dai, uscite, uscite dai, ma lo so che non ha fatto niente, ma almeno per l'identificazione dobbiamo fare, almeno l'identificazione dobbiamo fare. Stiamo andando al largo verso le coste dell'Albania, stiamo nuotando verso la libertà. Parla vicino al microfono, Doctor, non ti si sente. Censura per Doctor. Allora, la mia rassegna stampa è finita, però abbiamo un altro pezzo live, grazie ad Albus e Diesis che sono qua, cioè, ci stanno raggiungendo tantissimi ospiti. Sì, qua è arrivata Rosa. C'è Guido che ci chiede una musica, adesso una canzone, cerchiamo di scaricarla. Saluta Frenchy, tra l'altro. Ciao Frenchy. E dai, niente. Vabbè, lo saprà Guido. La salutiamo anche dopo, quando mettiamo questa canzone. Però intanto ci abbiamo. Ah, sto zitto. Bevi, bevi, compagno, se no t'ammazzerò. Non m'ammazzar, compagno, che adesso beverò. Compagno beve la canteremo, la canteremo. Mentre il compagno beve la canteremo, la libertà. La la la la la la la. La canzone che ammazza di preti. La la la la la la. Mazziamo la che se nasce l'anarchia, un pranzo sa da fare, tutta vitella e manzo. Se duimu da magna, se duimu da magna, e frittole de monache, preti da dispezzati, l'osso dei maiali. Ai cani sa da da, ai cani sa da da. Le chiese son botteghe, i preti son mercanti, vendono madonne e santi, a noi ci credono vecchi poveri ignoranti, vecchi poveri ignoranti. La la la la la la la la la la canzone che ammazza i piedi, la la la la la la ammazza monache e pepi e fa la la la la la la la la la la canzone che ammazza i piedi, la la la la la la ammazza monache e pepi e fa. Yeah, improvvisata, ma dai. Bene, bene. Bravi, bravi tutti. Grazie, grazie davvero. E... occhio, occhio. Attenzione. Era stato censurato di nuovo. Oh, hai capito, reverendo? Mazzamona che predi. Ritorniamo in diretta su Radio Contatto, aka Radio Leggerezza, aka Radio Aperitivo, che si è trasformata in cena. Non ancora, non si sta mangiando niente. No, qua non si mangia, no, qua non si mangia. Si beve. Si beve e basta. Ma... e, nel frattempo, vabbè, non so più cosa dire. Ma cioè, salvatemi, metto una canzone, davvero. Rosa, ciao. Ah, giusto. Rosa, saluta. Salutiamoci. Ciao a tutte e tutti, buonasera. Benvenuta, Rosa. Grazie, grazie. Se non sbaglio, sei qua per parlarci di una cosa molto importante. No. Non vuole più. È venuta qua a bere e ballare con noi. Vabbè, posso fare un anticipo. A gozzovigliare con noi. Possiamo mettere una canzone e poi... l'anticipo e poi la canzone? Dai. Il trailer ce lo fai, no? Sì. Ve lo faccio io il trailer, se volete. L'ho composto prima, no, non lo trovo più, basta. Basta. Dopo fallo però. Yeah. Allora, ritorniamo qua su Radio Contatto, su wombatnoblogs.org, seguiteci, scriveteci a frittole@gattini.ninja e abbiamo un'altra sorpresa da a parte dei nostri cantautori del giorno, no? Diciamo stornellanti, ma della sera. Comunque è una sorpresa per Guido, che ci ha scritto, ci ha richiesto una canzone, io la stavo scaricando e poi mi hanno detto no, ma la sappiamo fare, quindi facciamola. Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dire. Il tuo nome di battaglia era Binine, io ero San Luca. Eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai parlavamo del futuro, se il destino ci allontana. Il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà. Mi ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò. Il domani era venuto e la notte era passata. C'era il sole su nel cielo, sordo nella libertà. Yeah. Grande Albus. E adesso la facciamo in versione ska? Come la fanno? No, niente, scusate. Ma come? No, dovevi crederci. C'è illuso completamente. Mancavano i fiati. Mancavano i fiati. Il basso, la batteria. Prossima volta arriva Diesis con i fiati. Prossime puntate, aspettateci. Io per questa puntata mi ero preparato anche dei meme da leggere, però sono brutti da leggere. Cioè, posso solo dire che l'ho visto cosa stai guardando. Che il 5 febbraio si diceva cinesi di merda, poi sono arrivati lombardi di merda, fuorisede di merda, cani di merda, governo di merda l'11 marzo, poi lanciafiamme, poi runners di merda, fontana di merda, imps di merda e bambini di merda l'1 aprile. Non so se cos'è aggiornato oggi. Ma vabbè. Allora, ci suonate qualcos'altro? Ma ci cogli sempre un po' impreparati. Va bene. Passiamo alla disco. Vabbè, Guido ci ringrazia commosso. Grazie Guido, anche noi lo siamo. Anche noi. Ciao. Lo siamo. Sì. Yo. Do you care? aprite bene le orecchie, per favore, questo è un annuncio importante. Aprite le casse. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Sì. È incredibile, non può essere vero. Quel moccioso pensava che non facessero sul serio. Sì, povero illuso. Adesso vai, figliolo. Devi riportare la pace sul nostro pianeta. E tutto questo per dire. Ma. Sei epico, reverendo. Spiegaci. Mi sono cervellato tutto il pomeriggio. È troppo epica questa cosa. Non ho veramente niente da fare in questo periodo. Perché? Perché questo? No, non ne parliamo. Parliamo piuttosto di questo spottino. Dici Chiara Rosa, perché noi pensavamo che stessero scherzando? Perché pensavamo che non stessero facendo sul serio? No, va bene, non ce lo puoi dire tu, però. Ma cosa stai dicendo? Ha perso il capo. Che cosa, a cosa abbiamo pensato, Rosa? A cosa hai pensato tu? Beh, in realtà, sì, sono venuta a parlarvi della nostra iniziativa letteraria, di cui però non possiamo dirvi nulla. Non possiamo ancora dire niente, attenzione. È un'iniziativa che prevede dei premi incredibili, di cui però non possiamo dirvi nulla. Però vogliamo che voi vi prepariate per partecipare, quindi vi carichiate, iniziate a pensare, a raccogliere. Che possiamo fare noi che vogliamo vincere i premi? Concentratevi. L'importante è partecipare. Come possiamo partecipare? Ecco, questo è importante. L'importante è partecipare. Quindi ci saranno dei premi, ma non andranno ai migliori, perché i migliori saranno tutti. E concentratevi tutte e tutti sull'altrimenti, quindi nei prossimi giorni, finché non vi daremo maggiori indicazioni, interiorizzate questa parola. L'altrimenti? Il parallelo? Cercatelo dentro di voi. Capite quali possono essere gli altrimenti. Ma tipo l'aldilà questa cosa. Dai, doctor. Potrebbe essere anche quello. Ognuno avrà la sua versione dell'altrimenti, perché ovviamente l'altrimenti è assolutamente soggettivo e non omologato, quindi. E sentiti libero di esprimerti. Va bene. Con l'altrimenti che più ti aggrada. Io sì, vorrei integrare, rivolgendomi a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori in questo momento, davvero di spremere le meningi, di iniziare a far frullare il cervelletto e a formulare qualcosa che non hanno ancora letto o sentito da nessuna parte, perché quel qualcosa, quell'altrimenti, ci piacerebbe saperlo, ci piacerebbe immaginarlo, ci piacerebbe condividerlo. Beh, prima di tutto che voi lo condivideste con noi, e noi vogliamo condividerlo con gli altri, insomma. Riscaldate le penne e le tastiere che avete abbandonato per il dito che scrolla lo schermo del vostro telefono, e provate a rispolverare quella vecchia scrittura che non è più così in uso oggi. L'iniziativa letteraria per eccellenza. Va bene, vi faremo sapere di più dopo questo pippone. Veramente scrivetevelo da qualche parte, cioè incidetevelo bene nella testa. Abbiamo bisogno di voi. Altrimenti. No, restate sintonizzati su Wombat e ne saprete di più. Sound, I'm gonna get the sound, top. Allora, non stavamo scherzando. Indizi. Diamo degli indizi. Qualcuno ha una domanda da fare. E quindi volevamo dire che davvero stiamo pensando di fare una cosa seria. Abbiamo bisogno dei vostri iscritti e vorremmo pensare all'altrimenti. Vorremmo leggere cose che non leggiamo già tutti i giorni su pulciosissimi giornali. E vorremmo che queste cose venissero da voi. Ecco, questo è un indizio. Questo è un indizio a voi, libera interpretazione. E ne saprete di più da qui. Secondo indizio, un premio potrebbe essere una birretta. Ma no, anche più di una, anche due. Dopo l'ennesima radioconfusione ritorniamo su Radio Wombat, ritorniamo su Radio Contatto, Radio Cena, ormai 20 e 38 i nostri orologi atomici. Ma magari aspettiamo solamente che la cena sia pronta per noi. La cena contadina ci mette le zucche. Sì, poi adesso che fa buio tardi. Giusto. Ma posso approfittare di questo momento morto per fare lanciare un pensiero a un amico che compie gli anni oggi? Certo, modi. E che il tema della leggerezza me lo fa venire in mente. Quindi auguri Seba, che è confinato in Colombia, non si può muovere. Auguri! Ma dici che ci sentirà? Se ma non credo. Vabbè, auguri comunque. Però Radio Wombat arriva anche in Colombia. Non si sa mai, dici. Allora, abbiamo i nostri musici che ci stanno per proporre qualcos'altro, se non sbaglio. Esatto. Stiamo per cantarvi Dimmi bel giovane. Ah, ma sempre costicanti. Sempre costicanti, sti stornelli. Vabbè, volevamo leggere un attimo le informazioni che ci offre Il Deposito, che ringraziamo, perché ci offre appunto tantissime belle canzoni. E vediamo le informazioni riguardo questa canzone. Settimanelli ha avuto il pregio di raccogliere questo canto alla Strasegna a Firenze, quindi siamo anche di zona local. Esatto. Attraverso Donato Settimelli, il quale ricorda di averlo conosciuto dopo la guerra del 15-18. In effetti il brano non è riportato in alcuna stampa di canzonieri anarchici o socialisti di inizio secolo consultati. Ne lo riporta il canzoniere sociale, che dal secondo dopoguerra è forse il canzoniere anarchico più completo. Potrebbe interessare Rosa. Nella discografia degli anni 70 è riportato come autore del testo un anonimo. In altre ancora fanno risalire erroneamente il testo a Pietro Gori. Per fare finalmente e definitivamente chiarezza sulla vera origine del canto bisognerà attendere lo studio di Franco Bertolucci, Anarchismo e lotte sociali a Pisa, 1871-1901, che riporta alla luce alcuni fatti storici di indubbio interesse. Fra questi il canto che oggi è noto col titolo Dimmi bel giovane, che altro non è se non una poesia dell'internazionalista pisano Franco Bertelli, stampata nel 1873 presso la tipografia Citi dal titolo Dimmi buon giovane, esame d'ammissione del volontario alla Comune di Parigi. Dunque il testo è stato scritto in ricordo della Comune di Parigi del 1871 e solo successivamente è stato stampato. Il testo della poesia è molto più lungo e articolato, 22 strofe, rispetto a quello tramandato di sole 4 strofe con il ritornello La casa di chi l'abita, un ladro chi la ignora, la terra per i filosofi è di chi la lavora. Ce lo stai spoilerando, eh? Scusate, ma queste sono le spiegazioni, forse avremmo potuto leggerle dopo. Comunque, finendo... Come l'introduzione dei libri. Esatto, un po' modificato ma profondamente diverso nel significato politico che è l'incipit della poesia del Bertelli. Attenzione. Danno in studio. Comunque adesso vi facciamo sentire questo bellissimo stornello. Voglio luci spente forse. Dimmi bel giovane, onesto e biondo, dimmi la patria tua qual è, tua qual è. Adoro il popolo, la mia patria e il mondo, il pensier libero è la mia fe, è la mia fe. La casa è di chi l'abita, e vive chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa è di chi l'abita, e vive chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra è di chi la lavora. Addio mia bella casetta, addio, madre amatissima e genitor, e genitor. Io pugno intrepido per la comune, come Leonida saprò morire. Saprò morire. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra è di chi la lavora. Yeah. Ancora. Ancora. Versione ska. Prossima volta. Nel frattempo il reverendo è scappato. Reverendo è scappato? Ah, ecco. Torna da noi subito. Scherzo. Io... Ah, vabbè. Si può. Io non so, io inizio a avere fame. Vogliamo... concludere? Concluderci? Sì, addirittura. Sono pronta per un passo del genere. Non so... Hanno smesso di scriverci i nostri ascoltatori e ascoltatrici, poi non ci possono chiamare perché ancora non abbiamo scelto quale numero dargli. È un cattivo segno questo. Io posso salutare in ultimo Natalia che ci ascolta da Sassoleone. Ciao, in solitudine, ma comunque ci ascolta. Grazie dell'ascolto, un bacio. Grazie per la solitudine. Beh, Radio Wombat supera i confini fiorentini di molto oggi. Oggi sì, oggi sì. Silente ha portato ospiti da Piacenza e dalla provincia di Bologna. Grazie, Albus. Sei davvero. Mi stupisce davvero. Vabbè, io ricordo frittolechiocciolagattini.ninja. Tanto per. Così da qui alla prossima settimana avete tempo per scriverci cose. Suggerimenti per le minchiate. Richieste. Pensate al nostro, alla nostra cosa appena lanciata sull'altrimenti. Sì, fate frullare. Cioè sfrullatevi il cervello. Cioè prendete una mannaia, mettetela su un tagliere il cervello. Mamma mia, se immagine leggera. Potete anche usare il mini pime per fare prima. Fate così, vi tritate il cervello e poi lo rovesciate su un foglio. Spappolate un po' e poi ci dite cosa viene fuori. Oppure più banalmente potete ricordarvi dove avete messo l'astuccio, quella cosa con dentro le penne, e potete provare a scrivere qualcosa. Quaderni a righe, mi raccomando. Quaderni a righe. Dai, Doctor, mandaci una canzone e poi decidiamo come salutare questa puntata. Io. Ciao, mamma Wombat. Ebbene sì, avete capito cosa ha detto Darth Vader? Le dirette speciali. Che ci sono le dirette speciali. Allora, noi stiamo per andare a cena, direi. Correggetemi se sbaglio. 20:50, però ci vediamo di sicuro la settimana prossima. E ci sentiamo di sicuro la settimana prossima. E Dopodiché vi invitiamo a rimanere incollati su Wombat, perché alle 21.30 c'è It Hurts, una bellissima trasmissione live, in diretta, insomma. E grazie per essere stati con noi. Sì, grazie Albus, grazie Diesis. Grazie a voi. La vostra musica viva. Sì, sì, ci hanno detto pure che siamo molto stonati, ma in particolare comunque secondo me siamo contenti. Ma di non è vero. Ah, ce l'hanno detto il pubblico e si è lamentato. Fa simpatia essere stonati. Ma sì, infatti, fa simpatia. Comunque noi fa piacere cantare per voi, quindi magari lo rifaremo. No, davvero, Albus, sei il mio preferito stasera. Yeah. Grazie. E spero di riaverti presto qua, davvero. Grazie. Beh, per Radio Aperitivo ci vuole un po' di musichetta, poi prossima volta balleremo anche. Dai, il prossimo Radio Aperitivo ci avrete con voi. Prossima volta anche le trombette e percussioni. Altro che. Qui Diesis è un artista dei fiati. E allora vi aspettiamo. E niente, vi salutiamo, Wombate e Wombatesse. Grazie per essere state con noi ancora una volta. Vi mandiamo tanti baci, spremetevi le meningi e basta. Musica, l'ultima. Prendetela alla leggera, non so come altro dirlo. Dai, sì, facciamo che sta parola leggerezza rimane per tutta la settimana. Ce la ricordiamo. Buona idea. Leggeri e leggiatri. E leggiatri. Leggeristi? Leggere anche. È importante leggere. Scriverci. Scriveteci. Nel dubbio saluto Radio Spore, così in extremis. Ciao Radio Spore, siete dei grandi, fateci sognare. Vi ascolteremo presto, davvero. Presto su Radio Uomo. Ciao Sporadici.